Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi invito anche alla calma nelle risposte delle tante lettere che riceviamo. Recentemente qualcuno si è lamentato perché non rispondiamo subito. Abbiate pazienza, non è possibile rispondere subito. I casi sono tantissimi e hanno bisogno di approfondimento. Questa è serietà da parte della nostra redazione e di chi vi parla. Vi ricordo anche il blog su cui potete trovare molti approfondimenti di cose che ho tratto per la radio, per il giornale. Il blog si chiama Guardie o Ladri, il giornale ovviamente è Il Sole 24 Ore, e lo trovate, il mio blog, sull'home page appunto del Sole 24 Ore online. Allora, ricorderete che alcuni mesi fa abbiamo parlato e poi riparlato di alcune stranezze della regione Friuli Venezia Giulia. Ne parlammo con l'onorevole Ferruccio Saro, che denunciò il caso di un centro d'ascolto in regione, una specie di grande orecchio, sembrerebbe autorizzato ma non così in maniera esaustiva, del Corpo Forestale dello Stato a disposizione degli inquirenti per indagini in corso. Ne è nata una gran polemica che noi abbiamo seguito. Abbiamo ricevuto poi, alcuni giorni fa, una lettera lunga, dettagliatissima, da parte di un funzionario della regione Friuli Venezia Giulia, che vuole però rimanere anonimo. La lettera ovviamente è qui, lo dico anche a disposizione eventualmente di chi stesse in ascolto, perché ci sono degli estremi, potrebbero esserci degli estremi anche di reato, ma quantomeno amministrativo, ma comunque queste cose sono state già affrontate anche da alcuni politici locali. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di anomalie che sarebbero, e uso assolutamente il condizionale perché non sono un giudice, ascrivibili al comportamento dell'assessore al personale della regione Friuli Venezia Giulia, Elio De Anna, che è stato presidente della provincia di Pordenone. Chi come me ha qualche annetto, io sono ancora giovane, ma lo ricordo giocare, è stato una colonna della nazionale italiana di rugby, lui e suo fratello, i famosi fratelli De Anna. Allora, che cosa accade? Accade che l'assessore De Anna, al personale, avrebbe favorito parenti in consorzi di bonifica, fratelli, cugini, insomma, una situazione definita scandalosa dal nostro lettore, ma una situazione che ha avuto anche eco tra i parlamentari e tra i politici del luogo. Noi abbiamo cercato ovviamente De Anna, lo abbiamo cercato come facciamo sempre, ci ha risposto che fino a che non sarà concluso l'iter giudiziario lui non intende parlare. Ed allora noi abbiamo sentito chi invece intende parlare, ed è un consigliere dell'Italia dei Valori in Regione Friuli Venezia Giulia, Alessandro Corazza. Buongiorno Corazza. Buongiorno a voi. Corazza, lei sapeva che c'era un iter giudiziario in corso? Abbiamo preso la notizia diciamo di recente, ma in effetti l'assessore aveva già preannunciato appunto che avrebbe denunciato proprio un mio collega che sul tema si era speso successivamente appunto anche ai miei atti di interpellanza. Allora partiamo proprio dai suoi atti di interpellanza. Cosa c'è di anomalo e di strano nel comportamento di un assessore regionale al personale? Beh, diciamo che già dal 15 ottobre dell'anno scorso noi avevo depositato un'interpellanza appunto in regione, in Friuli Venezia Giulia, per chiedere appunto il perché di alcune stranezze. Nel senso che già ad agosto dell'anno scorso la giunta regionale aveva deliberato di provvedere direttamente alla gestione di un'azienda faunistico-venatoria regionale, e aveva previsto poi che per gestire quindi questa azienda si potesse fare un contratto privatistico da operaio, in sostanza, o meglio aveva permesso poi successivamente in un'altra legge di poter fare un contratto privatistico da operaio appunto per inquadrare poi una persona. Ecco, una persona, ecco, che si chiama casualmente, se non sbaglio, mi corregga lei, Mario De Anna, fratello di Elio. Sì, diciamo che c'è il signor Mario De Anna appunto, che è fratello dell'assessore regionale personale, che è stato assunto quindi a termine dalla regione con un contratto privatistico, come si diceva, da operaio, ai sensi di un'altra legge, ecco, la 9 del 2007, una legge che reca norme in materia di risorse forestali, e questo è l'ambito in cui comunque andiamo a parlare, insomma. E questo, diciamo, a questo assunto, neoassunto, erano state date delle mansioni un po' insolite per un operaio. Ecco, ovviamente io la interrompo un attimo soltanto per dire ai radioascoltatori che noi ovviamente ci stiamo occupando di questo caso perché spesso si accoppia il malaffare, tutto da provare, per carità di Dio, sono un garantista quando bisogna esserlo, la cattiva amministrazione, insomma il peggio del peggio nelle regioni del sud. In realtà la politica che fa affari, la politica clientelare, la mala politica si trova ovunque, e questo è un caso simbolo che noi abbiamo voluto prendere ad esempio, appunto, non solo o tanto per parlare dei pretesi favori e favoritismi di un assessore regionale al personale, ma proprio per parlare più in generale di quali siano le storture in capo alla politica italiana, e questo è un caso simbolo. Quindi dicevamo, insomma, della stranezza di questo fratello che fa rapidamente carriera, consigliere Corazza. Infatti, diciamo che gli sono date delle mansioni di affiancamento del legale rappresentante dell'azienda, di programmazione e realizzazione dell'attività di formazione e di predisposizione di atti tecnici per l'istituzione di un'azienda faunistica venatoria. Ecco, però quindi in questo, un operaio. Certo, sarebbe strano. In questa operazione però c'è qualcosa anche d'altro che potrebbe essere, di questo avremmo tanto voluto parlare con l'assessore Elio De Anna, potrebbe sembrare un atto di arroganza o un atto di consapevolezza dell'impunità. Scrive il quotidiano Il Piccolo del 27 febbraio 2009, nel corso di un'intervista con un suo collega, consigliere regionale Mauro Travanut del PD, che ci sarebbe stato addirittura, e le chiedo che fine ha fatto, un disegno di legge che sembrava quasi fatto ad personam per portare ancora più in alto il fratello dell'assessore, o sbaglio? Beh, diciamo che in effetti c'è stata in finanziaria, nella legge finanziaria approvata a dicembre, appunto, l'anno scorso, l'inserimento di alcuni appunti, commi, in un articolo in cui si faceva qualche riferimento, ma diciamo che la questione non riguarda, a detta dell'assessore, direttamente il suo fratello, riguarda invece la detta di segreteria di un altro assessore della regione, che è l'assessore, diciamo, alle risorse agricole, naturali e forestali, che grazie a quella norma avrebbe potuto far avanzare di grado uno dei componenti della sua segreteria. Quindi, diciamo così, che le informazioni di stampa e del suo collega sembravano portare ad un obiettivo, invece in realtà il favorito del re era un altro, era il membro della segreteria di un altro assessore. Sempre per stare in tema, poi in realtà sempre nello stesso medesimo articolo c'è un riferimento al fatto che, diciamo, la direzione al personale potesse, insomma, anche lì provvedere a dei, diciamo, degli avanzamenti e quant'altro, ecco, però ecco, insomma, non si può dire a chi faceva riferimento, perché purtroppo, a differenza di questo caso, in quest'altro non c'è stato segnalato nessun nominativo di persona. Allora, detto e ripetuto dunque che tutto ciò è il segno di una gestione della cosa pubblica quantomeno dubbia. E ripeto che non sta a noi tirare giudizi netti, siamo qui però per parlarne, siamo qui per formarci un'opinione, però con i fatti, come bisogna giustamente e correttamente fare nel mondo dell'informazione, fatti a cui si è sottratto, ahimè, Elio De Anna, l'assessore. E le chiedo, allora, proprio prendendo spunto da questa allegato alla legge finanziaria del Friuli Venezia Giulia del 2009, ma quanto è diffuso il clientelismo, il familismo, il teniamo famiglia anche presso i politici della sua regione? Nessuno escluso, guardi, glielo dico proprio come la penso, nessuno escluso vuol dire centro, destra, sinistra, a me non frega assolutamente nulla delle sigle dei partiti. Per esempio, voi dell'Italia dei Valori le fate queste nefandezze? Ma per quel che ne so io, per fortuna ancora non ci sono episodi di questo tipo. E indubbiamente è un malcostume che può essere diffuso, ma che fa parte, penso, di ogni singola persona. Certo, più che certo. Indubbiamente nel televalore, diciamo che le denunce che uno ha o le condanne non fanno curriculum per essere poi candidati in Parlamento. Ecco, forse in altri partiti diventa un merito. Questo accade e diventa un merito. Bene, io la ringrazio per questa chiacchierata, Corazza. Dico sempre, ovviamente, che i microfoni di Radio 24 e di Un Abuso al Giorno sono a disposizione del rugbista, ex rugbista mitico Elio De Anna, che ricordo essere una colonna a Rovigo, se non erro, nella nazionale italiana, straordinario giocatore. Perché non si butta anche nella mischia mediatica con me? Non sono forte e possente come lui, però comunque qualcosa ho da dire anche io. Allora, grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio a Laura Faginne. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.